Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. I soli momenti in cui Fabrizio poteva sperare di liberarsi dalla sua profonda tristezza erano quelli che passava nel suo appartamento di fronte a Palazzo Contarini, stando sempre a spiare alla finestra da dietro un vetro che aveva fatto sostituire in un riquadro alla carta oleata. Fabrizio intuiva solo in parte le ragioni del dolore di Clelia. Lei sapeva che suo padre, caduto in disgrazia per motivi tanto gravi, sarebbe potuto tornare a Parma e ricomparire a corte, cosa che per lui era una ragione di vita, soltanto il giorno del suo matrimonio. Il generale, che si era rifugiato a Torino, si era ammalato dal dispiacere e Clelia gli aveva scritto che desiderava sposarsi. Ma il contraccolpo di questa decisiva risoluzione era stato di farla invecchiare di 10 anni. Clelia sapeva benissimo che Fabrizio aveva preso un appartamento di fronte a Palazzo Contarini, ma soltanto una volta aveva avuto la sfortuna di vederlo. Appena le sembrava di intravedere un volto, una figura d'uomo che assomigliasse un po' alla sua, chiudeva immediatamente gli occhi. Fabrizio conosceva la profonda discrezione di Clelia. Sapeva che lei sarebbe stata assolutamente contraria a ogni soluzione clamorosa che potesse dar luogo a uno scandalo. Ma non ne poteva più, soffriva troppo, non riusciva più a sopportare che Clelia girasse ostinatamente la faccia da un'altra parte appena le sembrava di intravederlo. E decise di assoldare 2 domestici di casa Contarini. Una sera, sul tardi, Fabrizio, vestito da campagnolo, si presentò alla porta del palazzo dove era atteso da uno di quei domestici e si fece annunciare come un viaggiatore arrivato da Torino, dicendo che doveva consegnare a Clelia alcune lettere di suo padre. Il domestico lo fece salire in un'immensa anticamera al primo piano. Era così spaventato che salendo la scala stava per cadere. Clelia era seduta a un tavolino su cui c'era una sola candela. E appena lo ebbe riconosciuto, scappò a nascondersi in fondo alla scala. «Ecco, non ve ne importa niente della mia anima!» gli gridò nascondendosi la faccia con le mani. «Eppure lo sapete che quando mio padre era sul punto di morire avvelenato, ho fatto voto alla Madonna di non vedervi mai più. A questo voto ho mancato una volta sola, quel giorno, il giorno più terribile della mia vita, quando in coscienza ho pensato che fosse mio dovere sottrarvi alla morte. È già molto se sto qui a sentirvi, ma faccio un peccato, ne sono sicura, a interpretare il mio voto in modo così artificioso». Fabrizio fu talmente stupito da quella sua ultima frase che gli ci volle qualche secondo prima di rendersi conto che doveva esserne felice. Si aspettava un'accoglienza furibonda, era convinto che lei sarebbe scappata. Finalmente riuscì a controllarsi e spense la candela, l'unica candela accesa nella stanza. Benché fosse sicuro di aver capito quello che Clelia voleva, Fabrizio tremava tutto andando verso il fondo della sala, verso il divano dietro al quale lei si era rifugiata. Non sapeva se l'avrebbe offesa a baciarle la mano. Clelia stava tremando e lo abbracciò. «Caro», gli disse, «quanto tempo hai aspettato a venire? Posso parlarti solo un momento, perché è un peccato grave, ne sono sicura. E quando ho promesso di non vederti, volevo certo dire che non ti avrei neanche più parlato. Ma perché sei stato così spietato con mio padre? Voleva vendicarsi, è vero, ma dopotutto è lui il primo che è stato quasi avvelenato quando tu sei scappato di prigione. Dovevi farlo per me. Ho rischiato la mia reputazione per salvarti. E adesso hai preso gli ordini. E non potresti sposarmi neanche se io trovassi un modo per rompere con quell'uomo odioso». Un colloquio che incominciava con tante cose da dirsi non poteva finire troppo presto. Fabrizio disse a Clelia la pura verità a proposito dell'esilio di suo padre. La duchessa non c'entrava assolutamente, per la semplicissima ragione che lei non aveva creduto per un solo istante che l'idea del veleno fosse del generale Conti, ma aveva sempre pensato che si trattasse di una trovata del partito della Raversi, deciso a disfarsi di Mosca. L'enunciazione di questa storica verità, descritta in tutti i particolari, fece davvero un gran piacere a Clelia. Era desolata di dover odiare una persona tanto vicina a Fabrizio. Adesso non era più gelosa della duchessa. Fabio Conti si era rifugiato sotto falso nome in un paesetto vicino a Torino, perché aveva paura che dalla corte di Parma chiedessero la sua estradizione per portarlo in tribunale. Clelia volle andare a trovarlo. Lo trovò che stava male, sull'orlo della pazzia. La sera stessa scrisse a Fabrizio per dirgli che era decisa a rompere definitivamente con lui. Quando ricevette quella lettera, Fabrizio, il cui carattere stava diventando a poco molto simile a quello della sua amante, si ritirò al convento di Veieca, sulle montagne, a 2 leghe da Parma. Clelia gli scriveva una lettera di 10 pagine. Una volta gli aveva giurato di non sposare mai il marchese senza il suo consenso. Ora glielo chiedeva, quel consenso. E dal fondo del suo ritiro di Veieca, Fabrizio glielo accordò con una lettera ispirata alla più pura amicizia. Ricevendo quella lettera, il cui tono amichevole, a dir la verità, la irritò moltissimo, Clelia stabilì lei stessa il giorno del matrimonio. E i festeggiamenti per quel matrimonio resero ancora più luminoso lo splendore per cui brillò quell'inverno la corte di Parma. Ranuccio Ernesto V, in fondo, era avaro, ma era anche perdutamente innamorato e sperava di convincere la duchessa a restare per sempre alla sua corte, e così pregò sua madre di accettare una grossa somma e di dare delle feste. La prima dama di corte seppe far fruttare benissimo quell'aumento di capitale. Quell'inverno le feste di Parma facevano venire in mente i bei giorni della corte di Milano e di quell'amabile principe Eugenio, viceré d'Italia, della cui bontà dura ancora il ricordo. Fabrizio, richiamato a Parma dai suoi impegni di coadiutore, dichiarò che per restare fedele alla disciplina che si era imposto avrebbe continuato il suo ritiro nell'appartamentino che il suo protettore, Monsignor Landriani, lo aveva costretto a prendere all'arcivescovato. Si chiuse in casa con un solo domestico e non andò a nessuna di quelle brillanti feste di corte, cosa che a Parma e nella sua futura diocesi gli valse una solida reputazione di santità. Il suo comportamento, ispirato soltanto dalla disperazione in cui lo aveva sprofondato il prossimo matrimonio di Clelia, veniva attribuito a una religiosità semplice e sublime. Un giorno andò a trovare sua zia. Si mise a piangere abbracciandola. Era talmente cambiato, quella faccia magrissima e quegli occhi che sembravano ancora più grandi, quasi fossero sul punto di uscirgli dalle orbite, e quell'aria sparuta, malinconica, quell'abitino nero, un po' liso, da prete povero, che anche lei si mise a piangere. Ma la sua commozione durò molto poco, perché si mise subito a pensare che quel bel giovanotto era tanto cambiato solo perché Clelia si era sposata con un altro. Fu così perfida da dilungarsi a parlare di certi particolari pittoreschi che avevano caratterizzato le splendide feste date dal marchese Crescenzi. Fabrizio non diceva niente. Chiuse un po' gli occhi convulsamente, diventò pallidissimo, ancora più pallido di quando era entrato. Quando soffriva molto, come in quel momento, le sue guance prendevano un colorito verdastro. Arrivò Mosca e quello che vide e che gli sembrava incredibile bastò a guarirlo completamente dalla gelosia che aveva sempre provato per Fabrizio. E quell'uomo così abile si mise con molto impegno e molta delicatezza a cercare di risvegliare in Fabrizio qualche interesse per le cose di questo mondo. Mosca aveva sempre provato per quel giovanotto molta stima e una certa amicizia, e ora che non c'era più la gelosia a soverchiarla, quella amicizia diventò quasi una vera devozione. Mosca, comunque, non lo lasciò andar via senza dirgli che la sua decisione di vivere in completo isolamento andava benissimo, ma che forse sarebbe sembrata un'ostentazione eccessiva se non si fosse fatto vedere a corte il prossimo sabato, giorno del compleanno della principessa. Fu una pugnalata per Fabrizio. «Dio mio», pensò, «perché sono venuto qui?» Si sentiva rabbrividire se pensava all'incontro che avrebbe potuto fare a corte. E quell'idea gli fece dimenticare tutto il resto. Alla fine decise che c'era una sola cosa da fare: arrivare a palazzo prestissimo, nel momento in cui avrebbero aperto le porte dei saloni. Il nome di Monsignor del Dongo, infatti, fu uno dei primi a essere annunciati alla serata di gala e la principessa lo accolse con tutti i riguardi. Fabrizio non perdeva d'occhio la pendola e dopo una ventina di minuti si alzò per congedarsi, ma proprio in quel momento entrò il principe. Fabrizio andò a porgergli i suoi omaggi, lasciò passare qualche minuto, poi si avvicinò alla porta con abile manovra, ma restò vittima di uno di quei trucchettini di corte che la prima dama sapeva far funzionare così bene. Il ciambellano di servizio gli corse vicino e gli disse che era stato scelto per giocare a whist al tavolo del principe. Era un grande onore quello alla corte di Parma e del tutto sproporzionato alla posizione che il coadiutore occupava in società. Un onore del genere era già eccezionale per l'arcivescovo. Fabrizio sentì una fitta al cuore. E benché detestasse le scene in pubblico, fu sul punto di rispondere al ciambellano che gli era venuto un improvviso mal di testa, ma poi pensò che sarebbero venuti a chiedergli come stava, esprimergli il loro rincrescimento e sarebbe stato ancora più insopportabile della partita. L'idea di dover parlare gli faceva orrore quel giorno. Per fortuna, fra tutti i grandi personaggi venuti a ossequiare la principessa, c'era anche il generale dei Francescani, un uomo coltissimo da reggere il confronto con i Fontana e gli Uvoisin. Si era appartato in un angolo della sala e Fabrizio andò a mettergli davanti, in piedi, in modo da voltare le spalle alla porta, e incominciò a discutere con lui di teologia. Ma non poté fare a meno di sentire la voce che annunciava il signor Marchese e la signora Marchesa Crescenzi. E contro ogni sua previsione si sentì in corpo una gran rabbia. Fabrizio sentì uno scricchiolio molto vicino. Si voltò a guardare per la prima volta in tutta la serata. Il rumore veniva da una poltrona mossa sul pavimento di legno e seduta su quella poltrona c'era la Marchesa Crescenzi, i cui occhi pieni di lacrime fissarono quelli di Fabrizio, che non erano certo in miglior stato. Clelia chinò la testa. Fabrizio continuò a guardarla per qualche secondo. Stava fissando, come se la vedesse per la prima volta, quella testa carica di diamanti, ma il suo sguardo era pieno di collera, di disprezzo. Poi, pensando, «E i miei occhi non ti guarderanno mai più», si voltò verso il suo francescano e gli disse: «Il mio mal di testa sta peggiorando». Pianse per più di mezz'ora. Meno male che a farlo smettere venne in suo aiuto una sinfonia di Mozart, orrendamente massacrata come d'uso in Italia. Tenne duro, non si voltò a guardare la Marchesa Crescenzi. Era stato un sollievo quel pianto. Ora Fabrizio si sentiva calmo, sereno, vide le cose sotto una nuova luce. Quella povera donna era venuta alla festa soltanto perché il marito l'aveva costretta. Contava di andarsene dopo una mezz'ora, con la scusa che stava poco bene, ma il marchese le aveva detto chiaro e tondo che era impossibile. Chiamare la carrozza per andare via proprio mentre molti invitati stavano ancora arrivando sarebbe stato del tutto fuori luogo. Avrebbero potuto prenderla come una critica indiretta alla festa data dalla principessa. Clelia si era rassegnata. Non aveva ancora visto Fabrizio e sperava che non venisse neanche. Ma al momento in cui stava per incominciare il concerto, quando la principessa aveva fatto segno alle signore di sedersi, Clelia, non molto abile in quel genere di cose, si era fatta portar via i posti migliori accanto alla principessa e aveva dovuto andare a cercarsi una poltrona in fondo alla sala, proprio nell'angolo in cui si era rifugiato Fabrizio. Passando, aveva notato il saio del generale dei Francescani, che le era sembrato strano in mezzo a tutta quella eleganza, e sulle prime non aveva fatto caso a quell'altro, a quell'uomo magro con indosso un semplice abito nero, ma poi istintivamente lo aveva guardato. «Sono tutti così eleganti qui con i loro vestiti ricamati? Chi può essere quel giovane vestito con tanta semplicità?» Stava fissandolo e a un certo punto aveva dovuto spostare la poltrona per far passare una signora. Fabrizio si era voltato, ma lei sulle prime non lo aveva riconosciuto, tanto era cambiato. Aveva pensato: deve essere uno che gli assomiglia, sarà suo fratello maggiore. Ma credevo che avesse solo qualche anno più di lui e invece è un uomo di quasi 40 anni. Poi di colpo, da come lui aveva mosso la bocca, lo aveva riconosciuto. Come deve aver sofferto aveva pensato, e era stato per il gran dolore, non per restar fedele al suo voto. Chi aveva chinato la testa era sconvolta dalla compassione. Non era certo così dopo 9 mesi di prigione. Non aveva più alzato la testa a guardarlo, ma con la coda dell'occhio seguiva tutti i suoi movimenti. La poltrona sulla quale il marchese ebbe la soddisfazione di far sedere la moglie era molto vicina al tavolo da gioco del principe. Clelia poteva vedere Fabrizio soltanto di profilo, ma lo trovò così dimagrito. Le sembrò soprattutto che avesse un'aria così distaccata dalle cose di questo mondo, lui che una volta doveva sempre dire la sua a proposito di tutto quanto succedeva, che finì per arrivare a una dolorosa conclusione. Fabrizio era completamente cambiato. L'aveva dimenticata. E a ridurlo così magro dovevano essere stati tutti quei digiuni che lui praticava per devozione. I discorsi della gente intorno non facevano che confermarla in questa triste idea. Il nome del coadiutore entrava in tutte le conversazioni. Cercavano di spiegarsi la ragione del grande favore che gli era concesso, lui così giovane, invitato a giocare a carte con il principe, e notavano sbalorditi la sua corretta indifferenza e il suo distacco quando buttava le carte sul tavolo, perfino quando Sua Altezza gli dava da tagliare il mazzo. A un certo punto, al tavolo da gioco, Fabrizio dovette cambiare posto. Adesso era proprio di fronte a Clelia. E si abbandonò molte volte alla gioia di guardarla. La povera marchesa, a sentirsi guardata da lui, non sapeva più come comportarsi e se lo dimenticò molte volte il suo voto. Troppo forte era il desiderio che provava di sapere quel che Fabrizio stava pensando e alzava gli occhi a fissarlo. Finita la partita al tavolo del principe, le signore si alzarono per andare in sala da pranzo. Ci fu un po' di confusione. Fabrizio si trovò vicino a Clelia. Era ancora ben deciso a resistere, ma riconobbe il profumo leggerissimo che lei si metteva sugli abiti. Bastò per fargli dimenticare tutti i suoi propositi. Le andò vicino, sussurrò come se parlasse a se stesso 2 versi di quel sonetto del Petrarca che le aveva mandato stampato su un fazzoletto di seta dal Lago Maggiore e il cui argomento dice: «Quando più triste mi credeva il mondo, ero felice». E ora invece che la mia sorte è mutata, non mi hai dimenticata, pensò Clelia in un impeto di gioia. Non è incostante la sua bella anima, e trovò il coraggio di ripetere a se stessa quei due versi. Mai mutarmi vedrete, occhi splendenti che amor mi rivelaste. La principessa si ritirò subito dopo cena e il principe, che l'aveva accompagnata nelle sue stanze, non si fece più vedere al ricevimento. Quando lo si seppe, tutti gli invitati decisero contemporaneamente di andarsene. Nelle anticamere ci fu una grande confusione. Clelia si trovò vicinissima a Fabrizio. Sembrava così angosciato che ne ebbe compassione. «Dimentichiamo il passato», gli disse, «e conservate questo ricordo della nostra amicizia». E dicendo queste parole, tenne il ventaglio in modo che Fabrizio potesse prenderlo. Era tutto diverso adesso per Fabrizio. Diventò di colpo un altro uomo. Il giorno dopo disse che il suo ritiro era finito e ritornò a abitare nel suo splendido appartamento a Palazzo San Severino. L'arcivescovo, e lo pensava veramente, dichiarò che il favore che il principe gli aveva concesso invitandolo al suo tavolo doveva aver fatto perdere completamente la testa al nuovo santo. Gina capì che Fabrizio si era riconciliato con Clelia e quell'idea, aggiungendosi all'amarezza che provava quando pensava a quella fatale promessa, la portò alla decisione di lasciare Parma per qualche tempo. Questo colpo di testa lasciò tutti sbalorditi. Ma come? Lasciare la corte proprio adesso, che il favore di cui godeva sembrava non aver più limiti? Mosca, del tutto felice da quando si era convinto che tra lei e Fabrizio non c'era niente, diceva alla sua amica: «Questo nuovo principe è la virtù in persona. Ma io l'ho chiamato quel ragazzo. Riuscirà mai a perdonarmelo? Non vedo che un mezzo per ritornare in buoni rapporti con lui. Andarmene per un po'. Mi comporto con tutto il rispetto e tutta la gentilezza possibili, poi mi ammalo e chiedo di mettermi in congedo. Me lo concedete, vero? Tanto, ormai Fabrizio è a posto. Ma sarete disposta a fare per me l'immenso sacrificio, aggiunse ridendo, di cambiare il vostro sublime titolo di duchessa con un altro molto inferiore? Voglio divertirmi. Tutte le pratiche dei miei ministeri le lascio in un disordine pazzesco. Quei 4 o 5 funzionari abili che c'erano li ho mandati in pensione già da 2 mesi con la scusa che leggevano i giornali francesi e li ho sostituiti con gente di una stupidità incredibile. Quando ce ne saremo andati, il principe si troverà in un tale pasticcio che sono sicuro che sarà costretto a richiamare Rassi, anche se il carattere di quell'uomo gli fa orrore. E io aspetto soltanto un ordine del tiranno che dispone della mia sorte per scrivere una lettera traboccante di amicizia al mio amico Rassi, dicendogli che ho buoni motivi per sperare che al più presto sarà resa giustizia al suo valore».